Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sapete, alcune rapide informazioni di servizio che sono utili a tutti noi. Allora, la prima riguarda il sito internet radio24.it. Sapete che è possibile ascoltare le trasmissioni anche via podcast, potete scaricarle tranquillamente, ascoltarle in qualunque momento, dialogare con i giornalisti che hanno un blog. Voi sapete che io ne ho uno, lo trovate tanto sotto Radio 24, si chiama Guardie o Ladri, oppure lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Seconda informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, recentemente è stata raggiunta da un nostro radioascoltatore di Genzano, quindi ci troviamo in uno splendido comune alle porte di Roma, che fa presente un paradosso, una serie di paradossi che riguardano la sua condizione di diabetico. Quindi è una persona insulino dipendente, non da oggi, ma dal 65. Purtroppo è affetto da una forma cronica irreversibile, almeno stando a quella che oggi è la scienza e la conoscenza, di forma appunto diabetica. Quindi si inietta sistematicamente queste dosi di insulina attraverso questi apparecchi, ha i suoi rapporti con la ASL, come è normale che sia, per l'esenzione dal ticket dei farmaci salvavita, poi ha il presidio appunto che gli somministra, gli passa, come si suol dire con una brutta parola, anche le insuline, le strisce per la misurazione della glicemia, insomma tutte le cose che purtroppo servono quotidianamente a chi è affetto da questa forma molto molto fastidiosa e che talvolta può essere gravissima. Allora, per parlare, diciamo così, degli abusi che volontariamente o involontariamente vengono commessi nei confronti dei diabetici, almeno di alcuni di questi abusi, noi abbiamo con noi in collegamento il radioascoltatore Flavio Napoleoni. Buongiorno Napoleoni. Buongiorno a lei e ai nostri radioascoltatori. Allora, lei ha mandato una lettera, devo dire, molto sintetica, molto ben fatta, che bisognerebbe prendere ad esempio per chiunque voglia sollevare dei problemi, degli abusi alla nostra radio. Allora, può raccontarci un pochettino la giornata, la disavventura tipo di un diabetico? Sì, come lei ha detto, io sono dotato di un microinfusore, cioè una piccola pompa tascabile che inietta sistematicamente 24 ore su 24 delle dosi di insulina secondo un protocollo stabilito dal diabetologo. Come anche lei ha detto, la patologia prevede, oltre all'esenzione del ticket per alcune prestazioni, che la ASL fornisca dei materiali come le siringhe, per chi ne fa uso, o questi materiali che servono per il funzionamento del microinfusore che io di cui sono dotato. Bene. Sono naturalmente prescritti dal diabetologo. A me è successo in pochi giorni di verificare due questioni per le quali ho scritto. La prima riguarda proprio il fatto che mi è stato chiesto di fornire nuovamente da parte del diabetologo una prescrizione per questi presidi, cioè per l'ago che porto per via sottocutanea e del catetere che... Allora, questo gliel'ha chiesto chi? L'ASL? L'ASL, certo. Quindi l'ASL le ha chiesto, io faccio un momento il punto. Primo paradosso che lei segnala, l'ASL le ha chiesto che il suo diabetologo attesti nuovamente che lei è un diabetico. Sì. Perfetto. E quindi quantifichi i presidi che debbono essere forniti. Allora, detto che, poi lo vedremo anche nella risposta della ASL che commenteremo insieme, detto che i controlli sono sacrosanti perché purtroppo la spesa sanitaria è galoppante in Italia e non c'è modo di arrestarlo, visto che purtroppo è una spesa, diciamo così, necessaria e mai sufficiente. Detto questo, però, c'è da chiedersi, e se lo chiede anche il nostro radioascoltatore, ma se io ho dal 65 un diabete che è cronico, quindi è irreversibile, che bisogno c'è di farlo nuovamente attestare? Dico bene, signor Napoleoni? Esattamente, ecco. Anche perché, ecco, aggiungo, se mi è possibile, che magari se io utilizzassi una delle siringhe per iniettare l'insulina, la quantificazione potrebbe essere soggetta alla variazione delle somministrazioni, cioè se io faccio una iniezione mi serve una siringa, se ne faccio 4 al giorno mi servirebbero 4. Certo. Il diabetologo nel suo certificato attesta, e leggo dal certificato, che mediamente il SET va sostituito ogni 3 giorni, quindi sia che io inietti un millilitro o un litro di insulina, sempre 3 giorni dura questo SET, quindi non è soggetto ad alcuna variazione, quindi certo, la prescrizione dovrebbe normalmente valere senza una scadenza, a mio modo di vedere. Certo, ecco, però lei ha avuto anche qualche altra disavventura, sì, perché ha avuto dei certificati che non erano tanto, come dire, presi per il verso giusto dalla ASL. La seconda disavventura che mi è capitata è quella relativa ad un tesserino nel quale si attesta l'esenzione per alcune diciamo esami clinici essenzialmente. Certo. Rispetto a questo mi è stato chiesto non di fornire una certificazione del mio medico curante, che meglio di chiunque altro dovrebbe sapere quali farmaci mi prescrive, quindi il mio stato di diabetico, ma mi è stato chiesto di fornire una copia del certificato del diabetologo che prescrive questi presidi per i quali io ho inviato la mail di segnalazione. Benissimo, allora complicazione su complicazione, anzi potremmo dire malissimo, anche se diamo per scontata la buona fede, lo ripeto ancora una volta, la buona fede sta nel fatto che probabilmente ormai tutte le regioni, soprattutto la regione Lazio e altre regioni che hanno un piano di rientro dal debito, un piano espositivo debitorio sul fronte della sanità spaventoso, cercano in tutti i modi di contenere questa spesa e a volte, come in questo caso, si cade in prescrizioni o in richieste abbastanza ridicole, anche potremmo dire. Ma sentiamo adesso qual è stata la risposta ufficiale che ci ha dato l'ASL Roma H. Prego. L'azienda USL Roma H preferisce inviare una nota scritta, poiché ritiene che, data la complessità della materia, il quesito avanzato dal cittadino possa ottenere una più ampia e chiara risposta rispetto a uno scambio di battute verbali. Comunque, va precisato che le decisioni aziendali vengono assunte in piena coerenza con le direttive regionali. La Regione Lazio, infatti, nell'ambito delle iniziative volte a razionalizzare la spesa farmaceutica, ha introdotto nuovi sistemi di controllo. Tra questi è stato avviato il programma di rilevazione denominato WebCare per la patologia diabetica. Tutti i soggetti che usufruiscono di presidi per l'autocontrollo del diabete debbono ricevere un piano terapeutico annuale che ne indica il fabbisogno su prescrizione dello specialista. Pertanto, sebbene il diabete sia una patologia cronica, non suscettibile di guarigione, il fabbisogno dei presidi può, invece, modificarsi in base all'andamento della malattia. Di tale variazione deve essere inserito l'aggiornamento del sistema WebCare affinché i farmacisti possano erogare ai pazienti presidi nei quantitativi necessari, nell'esclusivo interesse dei pazienti stessi. L'aggiornamento di decine di migliaia di piani terapeutici dei soggetti diabetici residenti nel territorio aziendale della sola ASL Roma H ha richiesto un processo che ha impegnato il personale e gli specialisti per diversi mesi negli anni 2009 e 2010, secondo le disposizioni regionali. I comportamenti del personale della RMH non sono, pertanto, né improvvisati né discrezionali, ma dettati dal programma WebCare. Sperando di essere stati esaurienti ed esaustivi, più cordiali saluti. Sempre a disposizione, comunque, per dare tutte le spiegazioni dell'operato dell'azienda RMH nell'interesse dei cittadini. Dottor Giovanni Venditti, addetto stampa azienda USL Roma H. Bene, avete sentito la risposta. È curioso il fatto che si preferisca scrivere anziché parlare e dialogare. Io questo non lo capirò mai. Comunque, mi sembra abbastanza esaustiva la risposta. Napoleoni, abbiamo 40 secondi di tempo per commentare. Che cosa ne pensa? Penso che l'addetto stampa probabilmente farà bene il suo mestiere di giornalista. Dovrebbe però sapere che nel mio caso non vi è la possibilità di variazione dei presidi che mi servono. Io ho detto, se fossero siringhe, quindi io faccio più insulina, mi servono più siringhe, ne faccio meno, mi servono meno, quindi c'è una variabilità. Se io porto il microinfusore, comunque mi serve quel dato numero. Bene. Che non è soggetto a modificazione. Bene, ed infatti la lettera che abbiamo ascoltato faceva molto riferimento proprio al fabbisogno dei presidi e al conseguente ruolo che poi hanno i farmacisti nella somministrazione degli stessi. Abbiamo concluso la prima puntata destinata ad alcuni dei problemi che incontrano nella loro vita quotidiana i rapporti con la sanità, i malati affetti da diabete, grazie al nostro ospite Napoleoni, in regia Pietro La Corte, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani.